Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. minuti, torniamo in diretta per Radio Zanardi, che come ben sapete, oltre ad aggiungere i contenuti con le interviste e gli approfondimenti, la rassegna stampa sarà dalle 9.30 alle 10.30 per le prime pagine, gli articoli che troviamo dai principali quotidiani da noi selezionati. Si parte però, come ogni giorno, con le notizie dal mondo che ci circonda, curato da Radio Bullet per oggi 22 novembre 2019. Radio Bullet. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, venerdì 22 novembre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie del mondo, oggi dedicato, come di consueto, il mercoledì e il venerdì, alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo dall'Africa, cominciamo dalla Burkina Faso, dove 18 miliziani sono morti nel tentativo di assalto a una gendarmeria di Arbindà, nella regione nord del Burkina, la regione del Sahel. Lo ha comunicato la stessa gendarmeria. I soldati sono riusciti a respingere l'attacco, che ha portato alla morte di un soldato e al ferimento di altri 7, sempre secondo la stessa fonte. Nel corso dell'operazione sono state recuperate diverse armi e moto. Sudafrica è stato arrestato ieri per corruzione Bongani Mbongo, l'ex ministro della sicurezza del governo di Jacob Zuma e attuale parlamentare dell'African National Congress. L'accusa è di aver fatto pressioni sulla commissione parlamentare incaricata di far luce sugli affari di Eskom, la società pubblica di energia elettrica. È la prima volta che un ministro di Zuma viene arrestato. Non si fermano le manifestazioni in Algeria, che hanno ormai oltrepassato i classici appuntamenti del martedì e del venerdì. Ancora ieri sera, giovedì, per le strade di Algeri si sono ritrovate centinaia di persone in protesta contro lo svolgimento delle elezioni presidenziali del 12 dicembre. Come già successo il giorno precedente, mercoledì, ci sono state decine di arresti. Amnesty International denuncia un diverso trattamento da parte della polizia nei confronti delle manifestazioni, libere di svolgersi quelle a favore delle elezioni, represse e disperse quelle contro. Somalia, il governo federale ha condannato l'omicidio di Almanas Elman, giovane attivista dei diritti umani, uccisa a Mogadiscio, e ha promesso che verrà condotta un'indagine rigorosa e che gli autori saranno assicurati alla giustizia. Burundi, nuovi avvertimenti del governo agli operatori dell'informazione. Isidora Ntirambepa, segretario permanente al Ministero degli Esteri, in occasione di una conferenza convocata con le rappresentanze consolari, ha spiegato che il governo non accetterà nessun media che abuserà della libertà di espressione per attentare alla sicurezza pubblica. Per Ntirambepa i giornalisti sono cittadini come gli altri e non godono di privilegi particolari quando si tratta del rispetto della legge. La chiusura delle frontiere tra Nigeria e Benin rischia di far saltare delicati equilibri con le popolazioni di confine. Ieri l'esercito nigeriano ha sconfinato ancora una volta nel territorio del Benin nel tentativo di inseguire un contrabbandiere di riso, provocando la collera degli abitanti della zona di frontiera di Semekakre. La polizia del Benin è intervenuta per gestire la situazione ormai tesissima. Repubblica Democratica del Congo, il processo davanti alla corte militare dell'ex Kasai occidentale, che sta giudicando gli accusati per la morte di 2 esperti dell'ONU uccisi nel marzo 2017, è stato nuovamente rinviato per l'assenza degli avvocati di alcuni degli imputati. È la seconda volta in una settimana che questo avviene. Michael Sharp, cittadino americano, e la svedese Zaida Catalan erano stati rapiti e poi uccisi nel marzo 2017, mentre investigavano sugli abusi compiuti nel corso delle rivolte nella regione. C'è anche la camerunense Divina Malum tra i vincitori del premio internazionale della pace indetto dall'organizzazione olandese Kids Rights, assegnato a quanti contribuiscono a migliorare la situazione dei loro coetanei nel mondo. Divina Malum, che ha 14 anni, ha fondato nel 2014 il movimento Enfants pour la Paix, Bambini per la Pace, per lavorare con i bambini vittime del terrore nelle zone del nord del Camerun dove operano le milizie di Boko Haram. Europa, la Francia è diventata il primo paese europeo per numero di richiedenti asilo. La notizia è stata data ieri dal ministro dell'interno Castaner durante un incontro con il suo omologo georgiano. La differenza tra i due paesi è minima, ma è la prima volta che questo accade dal picco migratorio del 2015. Il sorpasso, ha spiegato Castaner, è avvenuto il 20 ottobre scorso, quando la Francia ha registrato 120.900 richieste contro le 119.900 in Germania. Lo scorso anno la differenza tra i due paesi era di 60.000 unità. Thank you all the students from this wonderful university coming here to help us launch our manifesto today. In Gran Bretagna il Partito Laburista ha presentato il suo manifesto per le elezioni del prossimo 12 dicembre. Nazionalizzazioni, investimento nei servizi pubblici, edilizia popolare, lotta ai cambiamenti climatici, borse di studio per l'università, aumento del salario minimo, servizi sanitari gratuiti per gli over 65, imposte sulle compagnie petrolifere per finanziare l'economia green. C'è chi lo ha definito il manifesto dell'invidia per l'attacco ai ricchi e alla grande borghesia, chi invece lo trova l'unica risposta sensata alla crisi, anche di fiducia, che attraversa la Gran Bretagna, dove il 66% delle persone, secondo una recentissima indagine statistica, non crede più che i problemi possano avere una soluzione. Il testo del manifesto laburista nel link che trovate sul nostro sito. Restiamo in Gran Bretagna per una polemica però tutta tedesca sul cofondatore del movimento Extinction Rebellion, accusato di aver sminuito l'Olocausto per delle dichiarazioni rilasciate in una intervista al settimanale Die Zeit e per un'altra a Der Spiegel. Roger Ahlam aveva detto che il genocidio è una costante della storia umana e che quello degli ebrei è solo una delle tante nefandezze compiute dagli uomini e ha citato come esempio il genocidio in Congo. Nell'intervista Spiegel ha detto anche che il cambiamento climatico è solo il tubo attraverso il quale il gas fluisce nella camera a gas, è solo il meccanismo con cui una generazione ne uccide un'altra. Infine ha invitato i tedeschi a non farsi paralizzare dal senso di colpa. Tanto è bastato per scatenare le proteste a partire dalla stessa branca tedesca del movimento, che ha preso le distanze da Hallam e lo ha dichiarato persona non grata. L'editore tedesco del suo libro ha annunciato lo stop alla distribuzione, il leader dei Verdi tedeschi ha criticato le sue affermazioni, stessa cosa ha fatto il ministro degli esteri Heiko Maas. Ieri Hallam, con un lungo post su Facebook a cui vi rimandiamo, si è scusato per le sue parole, affermando che non era sua intenzione sminuire l'UNNA, ma solo ricordare come l'umanità sia incapace di imparare dai propri errori. E continuiamo la lunga pagina sulla Germania, cominciando dal divieto di manifestazione pronunciato dalla polizia di Hannover, dove domani avrebbero dovuto sfilare i neonazi dell'MDP contro i giornalisti. Gli estremisti di destra stanno conducendo da tempo una campagna contro i giornalisti, in particolare contro tre freelance che si occupano delle loro attività, minacciandoli anche pesantemente nelle reti sociali, e hanno individuato appunto questi come obiettivo simbolo. Lo scorso venerdì i media tedeschi avevano sottoscritto una lettera di solidarietà ai colleghi minacciati, invitando la politica a proteggere meglio la libertà di stampa. E si apre oggi a Lipsia il congresso della CDU, a un anno dall'arrivo al vertice del partito di Annegret Kramp-Karrenbauer, la cui leadership è fortemente in discussione. Secondo un sondaggio, il suo avversario interno, Merz, avrebbe il sostegno di più della metà degli intervistati e il 71% di questi desidera un suo maggior peso all'interno del partito. Merz è stato sconfitto proprio per la leadership lo scorso anno. Di contro però il 57% pensa che Annegret Kramp-Karrenbauer dovrebbe avere un ruolo minore. Se si guarda l'appartenenza politica degli intervistati per il sondaggio, gli elettori di Alternative für Deutschland e i liberali propendono per Merz, mentre i socialdemocratici e i verdi sono dalla parte di Kramp-Karrenbauer. Intanto gli ambientalisti di Greenpeace hanno rimosso la lettera C dal logo del Cristiano Democratici che si trovava sulla sede del partito a Berlino, affermando che non sono degni dell'aggettivo cristiano poiché non sono riusciti a prendere misure per proteggere l'opera di Dio. La lettera rubata C viaggerà attraverso la Germania, non è ancora chiaro dove. Polonia, vittoria degli ambientalisti che contestavano l'organizzazione di una festa di Capodanno in una zona protetta vicino a un parco nazionale. La questione aveva assunto una dimensione politica, visto che la festa era quella della televisione Repubblica Polacca, il cui attuale presidente è un ex esponente di spicco del Partito Diritto e Giustizia, attualmente al potere, per il quale è stato anche sottosegretario alla cultura. La petizione degli abitanti del luogo aveva raggiunto le 28.000 firme e sabato scorso c'era stata l'ennesima manifestazione. Ieri infine Jacek Kurski, presidente di TVP, ha annunciato che il Capodanno non si svolgerà nella zona intorno al parco ma in uno spazio al chiuso. Repubblica Ceca, allo studio diverse misure e proposte dai diversi partiti per bloccare l'espansione di Airbnb nelle città storiche come Praga, dove si calcola che un quinto degli appartamenti sia ormai destinato alla piattaforma di alloggio temporaneo. Emendamenti al codice civile sono stati presentati dal Partito Pirata, mentre i socialdemocratici spingono per cambiamenti nella legge sulle licenze commerciali. Si pensa anche ad estendere a Airbnb l'imposta digitale del 7% approvata questa settimana per aziende come Facebook e Google. Nel 2018 9 milioni di persone hanno pernottato a Praga e ogni anno il loro numero aumenta di circa 300.000 unità. Slovacchia, caduta l'ipotesi di una grande coalizione dell'opposizione in vista delle elezioni di febbraio. I 6 partiti interessati non hanno trovato un accordo politico. Nonostante gli scandali e le implicazioni di personaggi vicini al governo nell'omicidio del giornalista Jan Kuciak, la coalizione attualmente al potere è data come favorita alle prossime consultazioni. E andiamo a concludere con la Danimarca, dove il dibattito sul sindacalismo organizzato da un settimanale danese ha visto questa settimana l'intervento del più grande sindacato delle fabbriche, Dansk Metal, il cui presidente ha difeso la politica della concertazione. Sono meglio piccoli miglioramenti che nessun miglioramento, ha detto Klaus Jensen. Quando ci sediamo al tavolo dei negoziati dobbiamo avere presente che il compito di negoziare buoni accordi è cruciale, ma che nessun accordo ha senso se non c'è una sponda politica. Siamo pragmatici e ogni tanto tocca anche ingoiare quello che non ci piace. La cosa più interessante è che Klaus Jensen confronta il suo sindacato con quello francese e tedesco, affermando che la ricerca del conflitto da parte di entrambi porta a una classe lavoratrice più povera. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Io vi saluto e vi lascio con i programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online. Appuntamento a domani con il notiziario orientale a cura di Serena Console. Una buona giornata, un buon fine settimana. Into the dark. Now we step into the dark. Torniamo in studio grazie alla redazione di Radio Bullet. Lo stacco prima del primo motivo di approfondimento che anticiperà la rassegna stampa è il pinzimonio radiofonico, l'etimo delle parole selezionate da Maurizio Casertano. Pinzimonio di venerdì 22 novembre. Il pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 39esima puntata del Pinzimonio radiofonico. Le parole di oggi sono indolenza, ignavia, viltà, malizia e infingardo. Cominciamo con indolenza, che deriva dal latino indolentia, che significa assenza di dolore, e nel senso non comune del linguaggio medico indica una mancanza di dolore riferito a una parte del corpo malata. Invece nell'uso comune indica un'indifferenza d'animo, un'inerzia, un'apatia, una pigrizia. L'indolenza di alcuni studenti è incredibile. Simile a questa parola è ignavia, che letteralmente significa pigrizia o indolenza spirituale, oppure viltà.

from his own hand. The dust of deceit is blown through the land. Unthought thoughts and unsaid words. The people feel so safe enough when traveling in herds. So Much Confusion Galliano, tornando in diretta alle 9.23 minuti, Radio Zanardi, per introdurre la nostra rassegna stampa. L'argomento saranno migranti. Per questo pomeriggio alle 18 in Montagnola Arci ha organizzato l'incontro Decreti Salvini, Leggi Bossi Fini e Il Tempo di Cambiare. Sarà un'occasione per riflettere come in Italia il tema dei diritti per i migranti non sia mai la priorità, subendo l'egemonia della destra. Ne abbiamo parlato con Filippo Miraglia, responsabile nazionale immigrazione per Arci. Sentiamo le sue parole. Il senso di questa iniziativa è che noi siamo abbastanza preoccupati del fatto che l'attuale governo e l'attuale maggioranza stiano procedendo al di là del linguaggio e del modo che hanno affrontare questo argomento, in continuità con il governo precedente e con il ministro precedente dell'interno in particolare, e che questa cosa ovviamente comporta anche delle conseguenze molto pesanti sulla vita di milioni di persone in Italia. Penso per esempio alla vicenda della cittadinanza, ma noi parleremo in particolare della questione degli ingressi legali per ragioni di lavoro, cosa sulla quale siamo preoccupati perché sono ormai 10 anni che non si può entrare più per ragioni di lavoro, e del sistema d'accoglienza e delle modifiche legislative che sono state apportate, diciamo, dai due decreti sicurezza del precedente governo, perché ci aspettiamo, e ne parleremo appunto con 3 parlamentari dell'attuale maggioranza, diciamo, che hanno sostenuto e sostengono questo governo, PD, LeU e Più Europa, perché pensiamo che debba arrivare segnale concreto di discontinuità rispetto al passato, con modifiche sia delle politiche che della legislazione. Diciamo, ci sembra che il tempo di parlare in maniera diversa sia già abbastanza, sia già sufficiente per così dire, e che quindi si debba adesso passare dalle parole ai fatti, e i fatti non possono essere semplici modifiche esteriori per così dire, no, e non di sostanza. Noi ci aspettiamo per esempio che venga modificato il capitolato sui CAS, reintroducendo le azioni di integrazione, perché questo significa una cura e un'attenzione al territorio oltre che alle persone che vengono accolte. Ci aspettiamo che nell'ex SPRAR, ora si proimi, si ritorni indietro e si possano reinserire. In particolare questa cosa la facciamo a Bologna, proprio perché Bologna è una città che aveva scelto di raccogliere l'invito del governo, peraltro ribadito nel decreto sicurezza, di passare dal sistema cassa, quello delle prefetture, a quello degli SPRAR dei comuni, e adesso si trova in una situazione in cui bisognerà tornare indietro e chiudere gli SPRAR per riaprire dei CAS, perché purtroppo la legislazione modificata da Salvini obbliga a fare questo passo indietro. E quindi ci aspettiamo che proprio a partire dalla situazione di Bologna il governo e la maggioranza si convincano immediatamente a tornare indietro al vecchio SPRAR, che ci sembra il sistema migliore, quello più giusto, e quindi reintrodurre l'accoglienza dei richiedenti asilo, di tutti i richiedenti asilo dentro quel sistema. E poi c'è il tema della reintroduzione dei permessi per ragioni umanitarie, che hanno portato l'Italia a essere il paese che riconosce meno titoli di soggiorno per motivi d'asilo di tutta Europa. Abbiamo addirittura abbassato la media europea. Noi prima eravamo leggermente al di sotto della media europea, con un riconoscimento intorno al 40%, mentre la media europea è del 42%, adesso siamo arrivati al 18%, una percentuale che significa che noi mettiamo in circolazione decine di migliaia di persone, che pure, come succede per esempio a molte decine di richiedenti asilo a Bologna, che hanno trovato un lavoro, hanno un lavoro a tempo indeterminato, stanno facendo ricorso contro il diniego della commissione. Prima, con la precedente legislatura, avrebbero trovato o in commissione o in un tribunale a seguito del ricorso un riconoscimento per ragioni umanitarie. Adesso hanno un lavoro a tempo indeterminato, hanno un contratto, ma quando il loro ricorso arriverà alla fine in tribunale, rimarranno senza un permesso di soggiorno e dovranno tornare a lavorare in nero, per così dire, il che non fa bene a nessuno, né all'Italia, né a loro, né ai datori di lavoro, né al nostro sistema economico. Quindi noi pensiamo che da questo punto di vista ci sia la necessità, ed è la ragione per cui abbiamo organizzato domani questo incontro pubblico, di dare un segnale di discontinuità concreta e non più solo a parole. Il tema della modifica dei decreti Salvini sembrava anche una discriminante per la nascita di questo governo, ma come abbiamo visto anche recentemente con il tema dello Ius Soli, le priorità sembrano sempre altre, e quello che in realtà si realizza è un'egemonia del discorso di destra. Sì, paradossalmente il Ministero dell'Interno attuale e l'attuale Ministra dell'Interno sembra più preoccupata di non dar fastidio a Salvini, e quindi è come se Salvini continuasse a fare un Ministro dell'Interno, diciamo così, e dall'altra anche appunto questo tema che ci ha un po' tutta la maggioranza, anche se è sembrato che le dichiarazioni di Zingaretti andassero in un'altra direzione, quelle fatte a Bologna, diciamo, qualche giorno fa. La preoccupazione è appunto di non dare alla destra xenofoba un argomento per raccogliere consensi, ma così facendo, diciamo che né il silenzio né tantomeno la continuità con quelle politiche ridarà un'anima a una sinistra, un centrosinistra e anche a questo governo capace di ribaltare il consenso che in questo momento ha la destra xenofoba nel nostro paese. Bisogna, come hanno dimostrato anche le manifestazioni in questi giorni, c'è tanta voglia di un'alternativa, ma questa alternativa si deve palesare con delle scelte concrete, non può essere un'alternativa, diciamo, solo a parole e fatta per la paura che torni Salvini. Altrimenti le persone rimangono a casa, non vanno a votare, non scendono in piazza, e come abbiamo visto in questo momento, se scendono in piazza lo fanno appunto contro la destra, ma non bandiera di partito, e questo perché i partiti non hanno il coraggio di indicare una strada alternativa. Step into the dark. Siamo giusti, 9:30, tra poco pubblicità, dopo torniamo in diretta, rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Per voi, Daryl Hall e John Oates. High on consolation, everybody's trying to tell me what is right for me. Yeah, I need a drink and a quick decision. Now it's up to me. Who will be here? She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face it. Devil to replace her. She's gone. And she's gone. Oh, why? What went wrong? Get up in the morning, look in the mirror. I'm worn as a toothbrush hanging in the stand. Yeah. My face ain't looking any younger. She's gone. She's gone. Oh, I, what went wrong? Think I'll spend eternity in the city. Let the carbon and monoxide choke my thoughts away. Your pretty body's help dissolve the memories. They can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I, oh, I better learn how to face it. She's gone. She's gone. Oh, I, oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Oh, I, what went wrong? Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. insegne di classe e piume d'oca. 9.35 minuti, nuovamente buongiorno da William Piana e Andrea Utensili per la rassegna stampa dei quotidiani odierni. Si comincia con un titolo che accomuna un po' tutte le testate, dal Corriere della Sera al Manifesto. Partiamo allora dal Corriere: i 5 Stelle da soli in Emilia, la base vota contro le indicazioni dei vertici e Bonaccini dichiara regalo alla destra. Il parere del 70% su Rousseau già la dice chiara, in maggioranza l'orientamento degli elettori del Movimento 5 Stelle. La decisione vale anche per le elezioni in Calabria. Corriamo sulle prime pagine per poi andare in approfondimento cercando di fare chiarezza su questa situazione che, come abbiamo già intuito, la troveremo ovunque. Baffa della base ai capi, la lista dei Movimento 5 Stelle nelle due regioni. È il 70% dei votanti su base Rousseau. Emilia e Calabria sconfessata la linea Di Maio. Lui dichiara corriamo da soli ma rischia di condannare Bonaccini e il governo, che già avete sentito dal Corriere della Sera. Risponde è un regalo agli avversari. Il voto su Rousseau è un licenziamento per Di Maio, è invece il giornale. La base umilia i vertici del movimento, sia i candidati in Emilia e in Calabria. Prendiamo il Manifesto, che invece già curre guagliò, ha un titolo decisamente più partenopeo. Del resto Di Maio ha l'origine e Rousseau sconfessa Di Maio e allo stesso tempo anche Grillo. Il 70% della base 5 Stelle vuole correre in Emilia Romagna e in Calabria. Ora il capo del movimento è debole e accerchiato. Pessima notizia per il PD, la sua sconfitta sarebbe la fine del mondo, tirerebbe giù il segretario Dem e il governo. Allora cominciamo a pagina 5 del Manifesto. Pioggia di critiche al capo politico che comunque prova a cavalcare il risultato. Alla fine di una giornata combattuta e controversa per il Movimento 5 Stelle con il capo politico Luigi Di Maio contestato come poche volte, il 70% dei 23.000 votanti su 112.000 aventi iscritti diritti al voto, Rousseau si è espressa contro quella che nel quesito veniva eufemisticamente proposta come pausa elettorale. Dunque il Movimento 5 Stelle presenterà le proprie liste in Emilia Romagna e Calabria, una decisione che non può essere letta come un segnale di sfiducia a Di Maio al netto della scarsa affluenza alle urne digitali, che appunto vedono un numero esiguo per quanto riguarda poi tutto il contenuto del Movimento 5 Stelle e politico degli aventi diritto poi il voto alle urne. Anche il Carlino, se vogliamo, che parla di tutto ciò, però lo mette all'interno. 5 Stelle, il web ha detto sì, correremo alle regionali. Anche questo verso il voto nella cronaca nazionale. Riprendiamo i contenuti, in questo caso dopo il Manifesto, dal giornale, che in maniera più decisa dice licenziato Di Maio, travolte i vertici del Movimento 5 Stelle. Di Maio che corre ai ripari dicendo ora corriamo da soli e riporta i soliti dati verso il voto del 26 gennaio, dati che sono ampiamente, per così dire, una previsione letta non solo dal giornale ma anche un po' così, non c'è, un po' superficiale. Riporta il Movimento 5 Stelle al 10,4%. Era stato arrestato a marzo, i 5 Stelle imputato per corruzione, è tornato a presiedere il Campidoglio. Stiamo parlando di De Vito, a processo a dicembre, l'imbarazzo dei colleghi di partito. Ma per quanto riguarda poi il giornale, salire in cattedra per questi contenuti, diciamo che ne avrebbe più da guardare in casa sua, ma questo per vedere quello che è una piccola realtà nell'occhio piuttosto che la gigantesca trave. Si fa presto a essere e a correre, a cavalcare tutta questa situazione. Dal Corriere della Sera invece, da cui siamo partiti, per tornare all'argomento principale che occupa largo spazio sulle pagine dei quotidiani odierni, questo è un suicidio, così i vertici con Grillo volevano arginare l'onda, ma la maggioranza dei parlamentari era contraria. La sottosegretaria Anna Laura Orrico dice ora una leadership condivisa. Orrico boccia la scelta dei leader. La vicenda, dopo la nascita del governo giallorosso, Di Maio ha proposto un asse, un patto civico con i Dem per le regionali in Umbria. L'esito del voto, che ha visto il Movimento 5 Stelle al 7,4%, ha indotto a sua volta il leader a mettere un freno alleanze. Si è aperta una discussione se correre o meno alle regionali in Emilia Romagna, Calabria a gennaio. I vertici hanno deciso di sondare la base con un voto su Rousseau. Il 70% dei 27.000 votanti ha scelto di proseguire nella corsa alle regionali. Grazie Willy, buongiorno a tutte e tutti. Proseguiamo con questa notizia sull'attualità delle pagine dei giornali. con appunto il declino del leader del Movimento 5 Stelle e la stampa, la prima notizia è la piattaforma Rousseau dà uno schiaffo a Di Maio. Grillo è pronto a mettere in discussione la leadership, la scelta rischia di creare tensioni grillini PD e c'è un articolo di Fabio Martini che ci dice il governo ritorna in febbrillazione, perdiamo la bussola, stiamo perdendo la bussola, sembra una frase di Conte, ministro, capo del governo, stiamo perdendo la bussola, il governo torna in fibrillazione, il presidente del consiglio riunisce i ministri a cena per fare squadra. E ancora questa stessa notizia viene ripresa dal Carlino, c'è Rosalba Carbutti che fa il verso a una novella di Italo Calvino, il Cavaliere dimezzato, e dice la sconfitta di un leader dimezzato. Luigi Di Maio ha perso quasi tutto, non gli è bastato derogare alla purezza tra compromessi, giravolte, alleanze a destra e a sinistra, stavolta si è superato, ha scelto di abbandonare pure il coraggio per un movimento che ha iniziato urlando vaffa a tutto e tutti e significa una sola cosa, suicidarsi. Demandare a un voto in rete la scelta se correre o meno alle regionali in Emilia Romagna e Calabria è stata una plateale ammissione di debolezza. Infatti c'è qualche sottosegretario che a questo punto pretende le sue dimissioni da capo del movimento. E all'interno il Movimento 5 Stelle in Emilia, il web dice sì per le elezioni regionali il 26 gennaio in Emilia, le elezioni del 2020, dopo un lungo valzer di ipotesi si è optato per appunto domenica 26 gennaio, anche nella regione del sud, con l'accorpamento al voto in Emilia Romagna, per una sorta di election day, quindi saranno accorpate le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. I candidati papabili sono scritti in un piccolo trafiletto dentro a pagina 3 del resto del Carlino, sono i consiglieri uscenti Silvia Piccinini, bolognese fedelissima di Bugani, il romagnolo Andrea Bertani, capogruppo uscente, più staccata l'ex assessore all'ambiente di Roma Pinuccia Montanari. Il testa a testa in Emilia Romagna, i sondaggi degli analisti in Emilia Romagna prevedono un testa a testa fra Stefano Bonaccini, modenese, governatore Dem in uscita, e Lucia Borgonzoni, nata nel 76, bolognese, senatrice della Lega e sottosegretario nel governo Conte 1. Il sistema elettorale, basta un voto in più, in Emilia si ha l'elezione diretta del presidente con la maggioranza semplice, i seggi sono 50, 40 consiglieri dell'assemblea legislativa sono eletti col proporzionale. Ancora la stessa notizia, la riprendiamo anche da Repubblica, polvere di 5 Stelle, viene titolata la prima pagina di Repubblica. Di Battista in panchina per la successione, oggi Grillo a Roma, ennesimo consiglio dei ministri nella notte, e ancora il capo allontana il congresso ma avverte dopo di me può esserci solo Di Battista, il caos è nel 5 Stelle, si ribella alla base. E c'è da dire una cosa, che la base della piattaforma Rousseau sono 127.000 iscritti, alla quale in questa votazione hanno votato solo 27.000, lasciamo a voi ogni delucidazione in merito. Sì, infatti certo i numeri riguardano un'esigua proporzione dei diritti al voto, non solo per quanto riguarda quello che rappresenta Rousseau, ma anche per quanto riguarda poi le urne a livello nazionale. Difatti a pagina 5 la preoccupazione però non manca, siamo sul Corriere della Sera, chissà se superiamo gennaio, cioè chissà se mangiamo il panettone. A proposito, allarme alla cena di Conte, i timori Dem per il caos Movimento 5 Stelle, il Premier, non ci saranno ricadute, così prova a rassicurare facendo da pompiere Conte, quando il verdetto di un Rousseau piomba sugli smartphone dei ministri. Al ristorante Arancio d'Oro stanno apparecchiando il tavolo da 22 coperti con tanto di rosa infiocchettata per le signore, e la sera della prima cena giallo-rossa voluta da, da Giuseppe Conte per fare, tra virgolette, squadra, piacere placare gli animi degli alleati e degli avversari e interrogarsi tra un carciofo alla giudia e un tonnarello cacio e pepe su come dare un'anima alla maggioranza, e appunto con la preoccupazione che chissà se si arriva a mangiare il panettone. Stacco musicale, torniamo tra pochissimo, continueremo a parlare di politica interna per poi passare al lavoro, sempre all'interno della nostra rassegna stampa di oggi venerdì 22 novembre. Stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Politica e lavoro a stretto contatto nella nostra rassegna stampa e anche nelle pagine dei quotidiani da noi selezionati. Si parla di Ilva, si parla di Alitalia e di tante altre realtà. Pagina 6 del Corriere, trattativa su Scudo e Altoforno, si apre uno spiraglio per l'ex Ilva. Oggi l'incontro tra Conte e Mittal, resta la questione esuberi, il gruppo speriamo in buoni progressi. Le condizioni, se si discute di piano industriale, io mi siedo 100 volte a quel tavolo. Riconvertire indispensabile l'intervento pubblico, parla l'imprenditore Antonio Gozzi, 65 anni, presiede il gruppo siderurgico Dufo. Ben sappiamo come il privato intento a prendere contributi e poi, come abbiamo visto più volte, non riuscire a risolvere la questione esuberi. Le regalie per il mondo dell'impresa si trasformano il più delle volte, anzi il meno delle volte, in qualcosa di risolutivo. Certo, creare commesse per quanto riguarda il mondo del lavoro sarebbe più utile, e soprattutto creare la realtà di percorsi lavorativi per i dipendenti, che sempre esuberi diventano parola d'ordine per riuscire a sanare, tra virgolette, per poi non risolvere nulla. Oggi l'incontro con l'azienda, ma non decisivo, e sul salva stati il premier spera in un rinvio salva governo. A pagina 4, come vi ho detto, lo stretto contatto con la politica risponta allo scudo, la Mittal è fiduciosa, l'ex Silva in CDM, la proposta di mediazione, offerti 3.000 esuberi, che restano poi sempre il motivo controverso di apertura e di ricatto padronale. Giornata piena, agenda fitta, eppure c'è il caso che anche la giornata chiave nella quale dovrebbero arrivare al pettine il nodo messe, quello Ilva, roba seria e flagrante, mica le diatribe da talk show sulla sugar tax che finisca in un classico doppio rinvio. Questo invece è il manifesto. Dal manifesto vediamo se troviamo qualcosa anche sul Fatto Quotidiano per quanto riguarda la ex Ilva, intento anche a parlare della realtà legata ad Alitalia. Nelle pagine del lavoro troviamo, come vi ho detto, l'importanza di Alitalia. Per Alitalia la concessione non si tocca, Atlantia lascia il tavolo, fallita la trattativa dopo il no dei Benetton ai tagli, il governo prepara la reazione. È in bilico Alitalia, in questo caso si aumenta, 11.000 dipendenti, finora è andata avanti grazie al prestito ponte pubblico, strano, da 900 milioni, altro 400 sono in manovra. Il vettore senza piano B, tutti contrari a venire incontro alle richieste del colosso, chiesto un parere sulla revoca. Ma come dicevo, anche l'Ilva, portata a fondo pagina 10 del Fatto Quotidiano, le due linee del governo al tavolo con i Mittal, il tesoro per trattare sugli esuberi e cedere al testo, il Mise vorrebbe più investimenti. Chiudiamo con il resto del Carlino che troviamo, anzi scusate, con il Giornale, in questo caso se parla di lavoro per quanto riguarda l'Ilva. Finora a pagina 6, Ilva esecutivo di Sperato riapre lo scudo ad Arcelor, atteso oggi l'annuncio, la mossa anche di Snam. Per il lavoro, scenari economici, i sindacati sono pronti a sfiduciare il conto bis, ma Landini tira il freno, la CGIL blocca lo sciopero generale contro il governo di sinistra, la CISL invece è in mobilitazione. La rabbia dei moderati come Furlan, che dichiara fisco, crescita e pensioni sono i temi di una protesta unitaria. Per quanto riguarda l'altra proroga per la compagnia l'Italia, nulla di fatto su Alitalia, in questo caso invece sarà sciopero. Sì, politica e lavoro, riprendiamo le pagine del Carlino, un articolo di Alessandro Farrugia, scudo ex Ilva, il premier apre a Mittal, paletti su produzione ed esuberi, la tutela legale potrebbe diventare una norma generale e a tempo per ammorbidire il no dei 5 Stelle, chiesto il processo per gli ex commissari straordinari Gnudi e Bondi, il comune di Taranto si proporrà parte civile. E sempre sul Carlino c'è un distinguo dei punti della trattativa, dall'occupazione a un futuro più green, sono i temi di cui si discute in questo vertice che si terrà appunto con il Consiglio dei Ministri. Uno sono le tutele penali, c'è una base di intesa fra ArcelorMittal con 4 punti in agenda. Il primo riguarda la certezza del diritto mediante il ripristino dello scudo penale. Il nodo, poi c'è il secondo punto, il nodo dell'Alto Forno 2, che deve tornare a produrre adeguatamente. Il tribunale ne ha invece richiesto lo spegnimento. Poi c'è l'occupazione, il punto 3 riguarda la riduzione, il numero degli esuberi e gli ammortizzatori sociali collegati, si ipotizza partnership pubblico-privato per creare nuovi posti di lavoro sostenibili. E nella riconversione c'è un progetto sulla tecnologia legata al piano ambientale con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti. Questo era il Carlino, dopodiché Repubblica, pagina 33, dobbiamo andare a prendere una notizia che riguarda Ilva e Mittal, si parla di una soluzione possibile. Oggi il vertice con Conte, sul tavolo lo scudo penale, l'intervento pubblico, ma gli esuberi ancora sono parte del nodo da sciogliere. Dal porto al digitale fino alla logistica, ecco i progetti per Cantiere Taranto, così si chiamerà questo nuovo progetto di cui si parlerà oggi. I numeri della crisi dell'acciaio sono 10.700 gli addetti in base agli accordi siglati da carcere, il Mittal, il governo e i sindacati, 5.000 gli esuberi e 2.500 gli ammortizzatori. Nella trattativa si ipotizza una mediazione su 2.500 esuberi con gli ammortizzatori sociali e l'impiego in altre attività. Ma ci sono altre notizie che riguardano la politica e il mondo del lavoro. Una è all'Italia, c'è Di Maio contro Atlantia che e salta fuori anche l'inchiesta sul ponte Morandi a proposito di Autostrade, Benetton e Atlantia. Sembra che la procura abbia trovato i sensori del ponte che non funzionavano dal 2016 e le analisi del ponte che davano come ipotetico rischio di crollo. Anche questa è una notizia che riprendiamo dalle pagine di Repubblica. La Stampa su questo argomento ci parla appunto di Alitalia, che il tempo è scaduto, c'è una possibile ancora rimando verso l'ottava proroga. I protagonisti del negoziato confermano la disponibilità ma non cambiano le condizioni. E ancora notizie dai giornali. Sì, dal mondo del lavoro, certo. Pagina 15 del Fatto Quotidiano che riporta questo. Vi parlavo prima di grandi nomi dal punto di vista imprenditoriale e quello che succede, cioè uno scandalo. Ecco la denuncia di General Motors per le richieste pagate dalla UAB dai dirigenti nel mirino i metodi di espansione negli Stati Uniti, cioè come con la corruzione, scarpe, fucili, viaggi, mutui, eccetera. Così FCA comprava i sindacati. La foto di Marchionne qua ritratto a centro pagina, l'accusa di General Motors: volevano indebolirci per poi comprarci. Replica: ci attaccano per la fusione con FPSA, ci hanno causato danni per miliardi risparmiando sui costi e sui salari, non avevo dubbi, magari sui costi per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, grazie ai sindacalisti corrotti. È un durissimo atto di accusa quello che General Motors il 20 di novembre ha depositato contro Fiat Chrysler Automobile. A venire denunciati gli inquirenti federali americani non sono solo le società concorrenti, la sua strategia di espansione, soprattutto la gestione di Sergio Marchionne, che non può più difendersi, ma soprattutto l'ultimo decennio dell'industria. Il reato ipotizzato da General Motors, associazione delinquere, coinvolgerebbe FCA USA, il capogruppo olandese FCA NV e tre dei suoi manager già condannati in vecchie inchieste. Corruzioni, mancanza di sicurezza nel mondo del lavoro, abbiamo parlato in precedenza di Ilva, quindi automaticamente anche del clima danneggiato. L'appello del movimento ecologista mi fa cambiare quotidiano, passando dal Fatto Quotidiano a pagina 6 del Manifesto. Friday for Future, portate le sardine, di cui parleremo più tardi, nei cortei dello sciopero per il clima. Il motivo di questa lettera si potrebbe riassumere con tante frasi fatte: uno per tutti, tutti per uno, l'unione fa la forza. Invece vogliamo dirlo nel modo che conosciamo meglio, invitandovi a portare le sardine al Global Climate Strike, che ci vedrà scendere nelle strade, nelle piazze, il 29 novembre. Prosegue l'approfondimento sempre per la politica e per il lavoro, in questo caso nella realtà dell'ecologia. Venerdì 29, quarto appuntamento di mobilitazione globale di giovani studenti. Questo microfono ha qualche problema. Il problema lo superiamo facilmente qui nella redazione per i giornali. Parliamo di ambiente e un'inchiesta che viene dall'America, di Arturo Zampaglione, che da New York ci parla che le grandi catene di fast food hanno intenzione di eliminare i pupazzi nemici dell'ambiente. Si è deciso di ritirare e fondere i gadget made in Cina. I giocattoli nei punti vendita di America e Gran Bretagna, nel mercato si è deciso di fondere e riciclarne per farne vassoi, tutti i giocattolini che venivano regalati con i menù per bambini, persino le bottigliette, un'altra catena di distribuzione di cibo confezionato e monouso, anche dei supermercati confezioneranno le cose con contenitori ecologici. Ancora una notizia sull'ambiente, riprendiamo una notizia data ieri su chi sono i responsabili dei disastri del clima, e cioè le finanziarie, le banche, le assicurazioni che comprano titoli delle compagnie che producono energie fossili. E c'è una guida a pagina 48 di Repubblica che ci dice che i risparmiatori scelgono le imprese della sostenibilità. Per una ricerca d'Oxa, 4 italiani su 5 preferiscono investire nelle aziende che hanno politiche in favore dell'ambiente e sociali, e si diffondono i prodotti finanziari che rispondono a queste richieste. I millennial vogliono che i leader delle imprese si impegnino nell'avere un impatto positivo sulla società. E ci sono già soluzioni verdi per i portafogli anche in ambito di assicurazioni. Tre passi nel futuro per ascoltare, fare rete e misurare i risultati. Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia, in una bella intervista appunto su Repubblica. Ancora sull'ambiente, direi che a questo punto a vedere se abbiamo ancora qualcosa, direi di no. Bene, allora lo spazio di approfondimento ci aspetta per motivi di lavoro e anche per il contenuto che riguarda l'ILVA, per Girolamo Di Michele che ci parla di questa realtà. Si tratta, per quanto riguarda l'ILVA a Taranto, la dicotomia lavoro-salute che viene imposta nella discussione sull'ILVA, sconto una mentalità lavorista. In realtà una rete di associazioni tarantine ha elaborato un piano B, di cui vi ho citato anche in precedenza dal Fatto Quotidiano, che prevederebbe la bonifica di Taranto e addirittura la creazione di 43.000 posti di lavoro. Ne abbiamo parlato con lo scrittore e giornalista Girolamo Di Michele, sentiamo le sue parole. Ma io sono del parere, come alcuni giornalisti bene informati hanno raccontato, uno fra tutti Gianmario Leone, sono del parere che ArcelorMittal intendesse in realtà chiudere l'ILVA, o meglio appropriarsi del portafoglio clienti, eliminare un concorrente debole, quindi che è facile da colpire dal mercato, in un'ottica di riduzione della produzione. ArcelorMittal ha già tagliato migliaia di tonnellate e migliaia di posti di lavoro in Belgio, in Portogallo, in Spagna, ha annunciato, anche se non ha ancora dato numeri, in Francia la stessa cosa. Questo perché il mercato mondiale dell'acciaio è in calo e per di più l'acciaio dell'ILVA è un acciaio scadente, prodotto con tecnologie inquinanti, che non riesce a reggere la concorrenza di acciaio di qualità che viene prodotto o recuperando per il 60% materiali ferrosi di riciclo come negli Stati Uniti e in Svezia a livello nazionale, o con nuove acciaierie come in Cina e in Qatar, molto meno inquinanti, che danno un acciaio di grande qualità. Quindi da parte di ArcelorMittal è un gioco sporco, ma era un gioco noto sin dall'inizio. Bastava vedere ArcelorMittal come si stava comportando in Europa per capire che avrebbe fatto la stessa cosa in Italia. Da parte invece governativa, i vari governi che si sono succeduti sembra quasi che non riescano a immaginare, come dire, un futuro che è fatto sia di lavoro che di salute. Esatto, non riescono a immaginarlo, sono preda di una visione che è iperlavorista, nella quale poi in realtà la falsa alternativa tra lavoro e salute significa dire che se volete lavorare dovete morire. Meglio morire di cancro tra 10 anni che morire di fame adesso, per dirlo in termini brutali. E invece l'alternativa c'è, esiste da oltre un anno un piano Taranto, ne parlavo sul Manifesto ieri. Si trova il piano Taranto ad esempio sul sito di Euronomed, o semplicemente cercando piano B per Taranto, piano Taranto, firmato da una galassia di associazioni ecologiste che ha utilizzato dei rapporti assolutamente attendibili, uno per tutti, un rapporto sulla bonifica delle aree inquinate a livello nazionale prodotto da Confindustria con uno studio durato 7 anni. Questo studio parte da un'ipotesi generale, quanto secondo Confindustria, torno a sottolineare, costerebbe e quali però ricadute avrebbe e quali ritorni economici avrebbe la bonifica a livello nazionale dei siti di interesse nazionale, come vengono definiti dal Ministro dell'Ambiente, con una crescita occupazionale di circa 200.000 unità a livello nazionale. A livello locale per Taranto significherebbe un investimento di 4 miliardi circa, quindi meno del Monte di Venezia per capirci, dei quali però 2 miliardi rientrerebbero sotto forma di introiti fiscali e di oneri contributivi generati dal nuovo lavoro, 43.000 posti di lavoro a fronte di una perdita perdita tra Ilva e Indotto di circa 15.000, quindi gli operai attualmente assunti sarebbero riassorbiti e non potrebbero che essere tra l'altro in prima linea, perché essendo quelli che conoscono la fabbrica dovrebbero essere quelli ai quali va chiesto di smontare la fabbrica per bonificarla, sapendo loro di cosa si tratta. Quindi una crescita occupazionale di quasi 30.000 posti di lavoro, con effetti positivi per tutto il territorio. È un rapporto, il Fiero Taranto, che fa un lungo elenco di quali fondi europei già esistenti potrebbero essere messi in campo se ci fossero dei progetti, quindi dice anche questi soldi dove andarli a cercare, e sono già lì, si tratta di presentare progetti di bonifica, e indica delle linee di sviluppo sul territorio. Ne cito una fra tutte: la riqualificazione del porto, perché l'Ilva occupa uno spazio portuale che è avvocato soltanto a sé, inquinando, mentre invece il porto di Taranto potrebbe avere uno sviluppo commerciale notevole, tenendo presente che Taranto ha alle spalle un aeroporto attualmente non in funzione, ma che va messo a norma, non va creato ex novo. Quindi riqualificazione del porto, riqualificazione dei moli di Taranto, che attualmente sono stati subaffittati a una multinazionale turca, quindi in situazioni di ulteriore servaggio. Quindi è qualcosa di estremamente concreto. È inquietante che non ci siano la firma della CGIL, della FIUM, della FIM su questo documento, e che i sindacati e i partiti cosiddetti di sinistra non abbiano risposto da un anno a questa parte alla convocazione esplicita che gli autori del Piero Taranto hanno fatto su questo progetto. Che c'è? Tu prima parlavi di costi, non abbiamo poi considerato i costi sanitari, che ad esempio per patologie tumorali sono ingenti. Certo, quindi certo, insomma, anche questo va tenuto conto. Esatto, non sono quantificabili, però sono nominati nel Piano Taranto. Cioè nel Piano Taranto si dice anche: attenzione, quando parliamo di costi dobbiamo considerare quanto costa il depauperamento del territorio e quali sono i costi, e ripeto, quali sono poi i costi in termini sanitari. Questo lo si trova. È chiaro che nessuno può pensare che dall'oggi al domani cesseranno i tumori a Taranto, ci sarà una generazione che sarà ancora condannata a vivere con questo incubo, con la diossina nel latte materno, con tassi di esposizione a cancro e leucemie superiori alla media nazionale, questo dobbiamo dircelo, però sul lungo periodo questi costi sanitari abbattuti andranno a contribuire al buon esito. E poi non bisognerebbe mai dimenticare che è scritto nella Costituzione che la salute è un diritto. Tu prima dicevi mancano le firme dei sindacati e anche dei partiti della sinistra, secondo te perché? Perché in realtà sindacati e partiti della sinistra non hanno mai avuto una visione alternativa al lavorismo, alla monetarizzazione del rischio, è una cosa che non vogliono che si dica. Si riempiono tutti quanti la bocca col Green New Day, esiste un progetto di Green New Day che antecede addirittura la creazione di questo sintagma da parte della sinistra democratica statunitense. Sul Green New Day, quello vero, non quello fatto a chiacchiere, non ci sono. Vorrei ricordare che quando il movimento cosiddetto del tre ruote arrivò in piazza e gli operai lo fecero passare, quindi arrivarono fin sotto il palco su cui stava parlando Susanna Camusso, distinto, si voltò e chiese: ma perché non interviene la polizia? Se qualcuno ha pensato che Cremaschi e Landini siano difensori dei lavoratori, vuol dire che ha fatto un brutto sogno e sta il caso che si svegli. Questo è il momento di far vedere che lo sono, se mai lo siano stati, e si stanno dimostrando in realtà difensori del lavoro e non dei lavoratori. Thank you. rullo di tamburi per una notizia che appunto mette insieme lavoro, ecologia, ma anche musica. Sì, riprendiamo 10:09 minuti primi la rassegna stampa dalle frequenze di Radio Città Fujiko per aggiungere questa notizia. Esce oggi il nuovo album Everyday Life della band Coldplay, e la band, questa è la notizia ecologista, non presenterà il nuovo lavoro in tour perché stanno cercando un modo di produrre il concerti sostenibili per il bene del pianeta. Non andranno in tour, ci prendiamo 1 o 2 anni per capire come fare concerti non solo ecosostenibili, e abbiamo addirittura un impatto positivo sull'ambiente, hanno detto i Coldplay alla BBC, lodati dal WWF. La parte più difficile è quella dei voli, ma per esempio il nostro sogno è evitare la plastica monouso, utilizzare soprattutto energia solare. Solo 2 presentazioni quindi per il nuovo album della band inglese Everyday Life, appena pubblicato, l'ultimo lavoro suddiviso in 2 parti, la prima si chiama Sunrise e la seconda Sunset, e c'è da dire che noi abbiamo avuto l'opportunità di ascoltarlo, noi e voi ascoltatori, grazie a Rock and Roll Radio di Andrea Gozza e Angela Zocco. E nelle settimane che ci sono appena state, il giovedì mattina, e volevo segnalare anche un articolo di fondo sempre su Repubblica che parla appunto della svolta verde dei Coldplay, e di Gino Castaldo, che l'articolo si intitola Il rock di Greta. E tutto è cominciato più o meno all'alba del nuovo millennio, quando qualcuno formulò una domanda molto semplice: belli i concerti, per carità, irrinunciabili, esaltanti, e non sarà che questi giganteschi colossal dello spettacolo, così amati anche dalla condivisione di valori, di pace e di progresso, possano risultare alla fine altamente inquinanti? E c'è stato tutto un movimento a favore di questo, ricordiamo i Tête de Bois, che organizzano concerti a pedali, cioè c'è un piccolo Luna Park di biciclette che fanno da dinamo e generano elettricità, ma questo ovviamente riguarda le piccole situazioni, altrimenti si ricorre ai pannelli fotovoltaici, si calcolano le emissioni e ci si impegna a piantare alberi per pareggiare i conti. Ricordiamo David Gilmour, ad esempio, ha collaborato regalando 21 milioni di dollari ricavati dall'asta delle sue chitarre a Client Art, uno studio legale non profit che si batte per le cause dell'ambiente. Ci vuole un esempio forte, dicono i Coldplay, chiudendo l'articolo, ognuno deve fare la sua parte. Per loro l'esempio non è suonare, spegnere la musica, accendere le luci verdi e avere il sorriso di Greta. A proposito di Greta, un ponte con i ragazzi di Greta, siamo sul manifesto Fuori dalle scatole e le sardine. Cari populisti, ci dobbiamo liberare della vostra onnipresenza opprimente e lo stiamo già facendo. Nasce ufficialmente il manifesto delle sardine, diamo coraggio ai politici che ci provano. Da Bologna la protesta ormai dilaga, sono già 40 le città che hanno visto o vedranno un flash mob contro Salvini. Il 30 novembre le sardine saranno in scena a Napoli, intanto in Campania a Sorrento debuttano i Fravagli, pesci piccoli per la frittura, anche loro sono contro Salvini. Grazie Andrea. I ragazzi e le ragazze dei Predator for Future inviano una lettera alle piazze ittiche, così definite. L'Unione fa la forza, portate le sardine ai cortei sul clima. Sì, indubbiamente entrambi motivi di percorso progressista, ma anche dall'estero, da quello che vedo su Repubblica. Sì, su Repubblica, pagina 8, un articolo di Ilaria Venturi parla di sardine d'esportazione. Il loro manifesto è anche un marchio depositato che hanno registrato all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, diventano DOC ed esportazione, nuotano sino al Mare del Nord, oltreoceano, le sardine del Belgio. Si stanno organizzando il 2 dicembre, quando Matteo Salvini sarà ad Anversa per incontrare il suo omologo fiammingo del Partito Nazionalista, Vlaams Belang. Vogliamo ribadire che c'è un'Italia diversa che non odia e non alimenta la paura, spiega Giorgio Marzà, il promotore, 36 anni, assistente di un parlamentare PD a Bruxelles. E il movimento conquista anche New York. Domenica pomeriggio a Washington Square si sono dati appuntamento le Sardine Atlantiche, un gruppo di quarantenni già in contatto con i promotori di Bologna. Le richieste sono arrivate da Olanda, Irlanda. Quello che si è risvegliato nelle piazze è il modo spontaneo di un movimento che il manifesto delle sardine, scritto e pubblicato dai 4 trentenni che hanno ideato il primo flash mob sotto le due torri, descrive così: siamo un popolo di persone normali di tutte le età, crediamo ancora nella politica e nei politici con la P maiuscola. Un monito ai populisti: la festa è finita, per anni avete rovesciato bugie e odio su di noi, avete approfittato della nostra buona fede, delle nostre paure e difficoltà, troppo tempo vi abbiamo lasciato fare. Infatti guardiamo all'estero, perché in Italia certi problemi mica ci sono. A pagina 10 il giornale dice: sorpresa, in Italia crolla l'antisemitismo. Infatti prendo il Corriere della Sera: Segre pronta a guidare la commissione anti-odio, sono stanca, gli insulti, la scorta, la mia vita è cambiata a questa età. Ma tanto non ci sono problemi di antisemitismo, basta andare nelle curve degli stadi, basta vedere le immagini, alcune scritte di minacce che arrivano e tutt'altro. Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima, credo sia normale chiedersi chi me l'ha fatto fare. Liliana Segre in un'intervista al Corriere: chi odia va fermato, non mi arrendo. Quello che viene minimizzato dal giornale, ma credo anche dal Carlino: memoria corta, nonostante sui media gli italiani sia diffusa un'immagine diversa, dice, sia in fondo se hai italiani buona gente, dice poi, un europeo su quattro ostile agli ebrei, da noi -11%, il dato peggiore in Medio Oriente. Non avevo dubbi su questa situazione, è anche abbastanza intuitivo. Nelle Americhe il minimo, ma anche in Sudafrica il razzismo dilaga sempre. La ragione del mondo peggiore per la regione del mondo peggiore per gli ebrei è il Medio Oriente, l'Africa settentrionale. Qua la grande maggioranza della popolazione nutre sentimento di ostilità per il popolo di Israele, seguono a distanza l'Europa centro-orientale, una regione in cui gli antisemiti sono il 34%, il dato è crescita, e poi quello occidentale con il 24%, fanno meglio l'Asia 22% e le Americhe il 19%. Antisemitismo, e a proposito di Medio Oriente, io piuttosto parlerei di antisionismo, che è un'altra cosa, ma come ben sappiamo il giornale fa presto a buttare polvere negli occhi per quanto riguarda questi due contenuti, li cavalca e come. Beh, tra l'altro questa notizia che viene ripresa anche dal Manifesto può essere un ottimo ponte anche per un'altra realtà che troviamo a pagina 23 di Repubblica, che non è certo rassicurante e va a smentire un po' il sondaggio preso dal giornale. Sì, Paolo Berlizzi apre pagina 23 di Repubblica con un'inchiesta: dalle svastiche agli arsenali segreti, questa è la svolta armata dei neonazisti. Ci sono dei precedenti, fu trovato un missile, lo ricordiamo, che la Digos a luglio ha sequestrato un missile in provincia di Pavia. Poi c'è Pierpaolo Lamberti, segretario di Forza Nuova a Sassuolo, che si fa riprendere in posa con il suo mitra. Poi c'è l'attacco studiato a Colle Valdensa, smaltellato una cellula neonazista, volevano far saltare in aria una moschea. E la Digos dice: dobbiamo capire il canale di provenienza delle armi, può essere utilizzato da persone pericolose per la sicurezza nazionale. E a proposito di Liliana Segre, c'è una pioggia di riconoscimenti con qualche bagarre da Trieste a Palermo per la cittadinanza onoraria, l'appello dell'associazione degli ex deportati. Questo non sia una scorciatoia per onorare la memoria. La senatrice a vita è decisa comunque a guidare la commissione sull'odio, e c'è una mappa di tutte le questioni in Italia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Sardegna, tutte le varie città che si sono offerte per dare la cittadinanza ordinaria a Liliana Segre. Ancora sulla politica, pagina 11, Giovanna Casadio ci dice che Calenda fonda un nuovo partito che si chiama Azione e attacca il governo Conte 2. Il centro-sinistra è ancora più debole e si spacca ancora una volta. PD e Italia Viva sono riformisti rammolliti. Io appoggio Bonaccini e se non fa un accordo con i 5 Stelle a giugno andremo al congresso. Questo ci dice Carlo Calenda dalle pagine appunto della Repubblica. Invece per quello che riguarda la politica, le pagine della Stampa, pagina 5, Francesco Grignetti ci parla della giustizia. Franceschini avvisa buona fede buona fede sulla prescrizione. Attenzione, noi rischiamo la crisi. C'è una raffica di interviste di tanti parlamentari a mostrare compattezza e anche voglia di menare le mani. Poi una telefonata tranquillizzante al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, grillino. Dall'altra parte del filo c'è Dario Franceschini, il capo delegazione Dem. La strategia del PD sulla giustizia è figlia di un ragionamento complesso svolto a più teste nei giorni scorsi, che una parte ha dato tutto il peso politico. Il PD di Zingaretti sta virando la piazza delle Sardine ancora di più, la Batosta in Umbria ha convinto il dirigente a tornare qualcosa di sinistra, e non si può parlare di proroghe per quello che riguarda appunto la giustizia. Dalla giustizia al Mediterraneo, a pagina 7 troviamo una notizia che ci può fare ponte con gli esteri: barconi stracarichi di bambini salvati dalle navi delle ONG, più di 300 persone soccorse dalle navi Open Arms e Ocean Viking, molti naufraghi fanno e hanno ferite da armi da fuoco. Arriva immancabile il silenzio, un silenzio assordante da tutta l'Europa, da Bruxelles. L'immagine ritrae l'Ocean Viking, a destra lo sbarco al Pireo di un gruppo di migranti provenienti da Lesbo. Quindi, sempre a pagina 7, a Lesbo, Chios, Samos verranno sostituiti da strutture fisse per il rimpatrio. Atene chiude i profughi nelle isole, erano diventati l'emblema dell'incapacità dell'Europa di gestire la crisi dei migranti. Ora i campi profughi della vergogna di Lesbo, Chios e Samos verranno chiusi. Ad annunciarlo il governo greco di centrodestra, guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis, i migranti accampati sulle isole verranno trasferiti in centri di identificazione, ricollocamento e rimpatrio che potranno accogliere fino al massimo a 5.000 persone, ammesso che il termine di accogliere sia il più adeguato. Infatti, ai richiedenti asilo infatti sarà vietato muoversi liberamente dentro e fuori dai centri, dovranno restare chiusi per il tempo necessario, cioè una vera e propria detenzione. Apriamo quindi la pagina degli esteri. Sì, siamo entrati a bomba nella pagina degli esteri, 10 e 22 minuti primi, parliamo di Hong Kong. Ci sono rimasti asserragliati dentro al campus universitario gli ultimi studenti, ci sono i genitori che si offrono di recuperare i loro ragazzi all'uscita di scuola e attraverso le macchine portarli in salvo dalla polizia prima che finiscano arrestati. C'è una fotonotizia sulla pagina della Stampa con il cortile del campus universitario di Hong Kong con la scritta SOS fatta con le maglie dei ragazzi. È una fotonotizia che fa abbastanza paura. Altra notizia che viene da Israele: Netanyahu è incriminato per corruzione e truffa, sono ben tre le cause giudiziarie a cui è sottoposto, e sono cause in cui è accusato di aver preso illecitamente fondi e soldi e di avere favorito indirettamente imprenditori israeliani, e adesso vedremo, perché probabilmente non ci sarà la possibilità di formare un nuovo governo, quindi è probabile che andremo a nuove elezioni nel più breve tempo possibile. E ancora ci sono altre notizie appunto dal mondo che le andiamo a prendere dalle pagine di Repubblica, che parla intanto del giorno nero di Netanyahu, e ancora il monito del Papa da Bangkok ci parla delle piaghe sessuali, e direi che questo è quanto. La notizia principale per quanto riguarda l'Israele: Netanyahu shock, andrà a processo per corruzione, già citato da Andrea. La prima volta di un premier alla sbarra in Israele, il leader della destra reagisce accusando di tentato golpe magistrati di sinistra, rifiutando per ora di dimettersi. L'inviato del manifesto è Michele Giorgio, che a pagina 9 dà motivo di approfondimento per tutto ciò. Quindi, come notizia principale per l'estero, inedito in Israele, un premier premier alla sbarra per corruzione, il leader della destra non intende arrendersi, ma ora deve difendersi anche dal suo stesso Likud. L'ultima notizia è il manifesto Labour, il compagno Corbyn punta sul rosso, quindi last but not least, sanità pubblica, alloggi popolari, riconversione energetica, un secondo referendum sulla Brexit, la sfida a Johnson è praticamente lanciata. Lasciamo il manifesto a brevissimo con la cronaca locale, la introduciamo con un argomento che riprendiamo dalla nostra redazione giornalistica, che parla di violenza illustrata. Violenza illustrata: dal 25 novembre al 10 dicembre a Bologna va in scena la 14ª edizione del festival La Violenza Illustrata. Leggiamo quindi che con la Casa delle Donne per non subire violenza riflette sul tema della violenza di genere. La nostra scusate, mi è partita una esce un po' così stonata, la nostra Alessia Mondelli, che ringraziamo e salutiamo, ha raggiunto la curatrice Valeria D'Onofrio. Sentiamo le sue parole. Il nostro titolo si rifà a quello, alle vite in movimento, alle vite che si attivano, alle vite delle femministe e delle attiviste che hanno creato i centri antiviolenza, alle vite di tutte le donne che li contattano e che trasformano la loro vita riappropriandosene. Questo attivismo è forte qui a Bologna, da quello che voi avete potuto riscontrare? Allora, è sicuramente vivo. Bologna ha il centro antiviolenza da 30 anni ed è un soggetto importante, uno dei più antichi d'Italia, ed è un soggetto importante che ha la capacità e la possibilità di confrontarsi con tantissime voci di donne, e non solo di donne, che si attivano su questo tema. Quindi è una situazione in cui sicuramente è più rosea che altrove, potrebbe essere migliore anche qua, ma è sicuramente vivo e attivo il femminismo a Bologna, assolutamente. Gli eventi più importanti secondo voi del festival? Allora, più importanti sono tutti molto importanti, io andrò a memoria e ti dirò che sicuramente ci sono due seminari importanti, il 28 novembre e il 2 dicembre parleremo di strumenti di protezione legale e di donne con disabilità e violenza presso l'Istituto dei Ciechi. Avremo delle mostre, la prima quella di Casa delle Donne, I Muri Parlano, in Piazza Renzo, su numeri della violenza e numeri contro la violenza, e ci saranno due spettacoli teatrali ad ingresso gratuito, il 26 all'Arena del Sole, Raptus sul femminicidio, il 9 dicembre Lei al Teatro Duse, e due proiezioni in Cineteca che ci parleranno di empowerment, sorellanza e cooperazione internazionale, sempre ad ingresso gratuito il 4 ed il 7 dicembre. Invece un'ultima domanda sui dati che avete raccolto. Qualche, non so, cosa ha colpito maggiormente dei dati di quest'anno? Il fatto è che sono dati che non cambiano. Se noi apriamo una nuova casa avremo un dato più alto. Se apriamo il telefono per più tempo abbiamo un dato più alto. Il che vuol dire che c'è una richiesta continua e che raggiunge più o meno tutta la nostra capacità di accogliere. E che quindi in realtà, appunto, come si diceva prima, non è Bologna è una città in cui si subisce più violenza che altrove, è una città in cui probabilmente si ha più modo di chiedere aiuto. Quindi da quello che voi potete riscontrare il problema della violenza sulle donne non è in calo? Assolutamente no, probabilmente non è neanche in crescita, perché è difficile misurare quello che non è mai stato detto. Quello che si può dire adesso è che finalmente le donne iniziano a parlarne. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Dieci e 27, siamo alle battute finali con le pagine locali, mentre ci apprestiamo al weekend per le donne, a favore delle donne, mentre c'è la manifestazione nazionale a Roma. Anche a Bologna abbiamo sentito, ci sono un sacco di iniziative, panchine rosse, abiti bianchi e quant'altro, e ancora gli appuntamenti sono a Granarolo, la fiaccolata degli uomini, io ci sarò e tu? È nato con questa domanda scritta su un cartello, il tantam su Facebook, lanciato dal comune di Granarolo per la grande fiaccolata del 25 novembre, mentre a Minerbio l'associazione Tararì Tararera venerdì 29 novembre aspetta i bambini dai 3 anni in su la biblioteca, più attenzione ai piccoli per lavorare anche con le famiglie. E in Val Samoggia si decide di tingere di bianco la ricorrenza del 25 novembre nel nome di Pippa Bacca, con abiti da sposa come quello che indossava prima di essere uccisa. E quindi chiudiamo con il Corriere di Bologna, che ha notizie già riportate nella cronaca nazionale. Regionali 5 Stelle corrono, e anche le sardine che lanciano il loro manifesto "Populisti è finita". Chiudiamo con l'affermazione della candidata della Lega: Borgonzoni promette, se vinco tolgo l'IRPEF. E a questo punto, a proposito di cioccolatai, il Cioco Show aspetta 300.000 persone fino a domenica 65. Cosa ridi? Ho fatto un legame. Cioè, il 65 laboratorio originale in piazza 27. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti, e per tutti i gusti ne abbiamo offerto anche a voi in questa rassegna stampa di oggi, venerdì 22 novembre. Sigla di chiusura, Chi fa da sé fa per te, con Elisa Iacobucci, e poi Jazz Live da Andrea Utensili e William Piana. Per oggi è veramente tutto. Ciao! Buon ascolto!